America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Big news this morning, some really ugly numbers for the U.S. economy. The latest GDP figures just came out a moment ago, and they show that the growth rate in the first quarter of 2015 was only 0.2%. PIL americano, crescita, avete sentito l'annuncio dato ieri dalle televisioni americane? E devo dire, non è stato un andamento soddisfacente, perché la crescita per gli Stati Uniti nel primo trimestre del 2015 è stata soltanto dello 0,2%, è stata sfiorata dunque la possibilità di una recessione, e non è detto che la seconda lettura che avverrà fra poco, entro giugno, non possa dare magari un dato rivisto addirittura al ribasso e dunque in recessione. Speriamo che sia al rialzo, ma questo dato preliminare è un dato che ha colto di sorpresa gli analisti, gli economisti, che stimavano invece una crescita dell'1%, una crescita pur sempre contenuta. A fronte di questa notizia, ce n'è stata subito un'altra, perché nelle stesse ore in cui il mercato reagiva perdendo colpi ovviamente in borsa, gli analisti e gli economisti parlavano, dentro le stanze, dentro la grande sala di consiglio della Federal Reserve, era riunito il Federal Open Market Committee, cioè il comitato monetario della Banca Centrale Americana, guidato da Janet Yellen, il presidente della Fed, il governatore della Banca Centrale Americana, che ha dato una immediata reazione. Sentiamo. Once we begin to remove policy accommodation, we continue to expect that, in the words of our statement, even after employment and inflation are near mandate consistent levels, economic conditions may for some time warrant keeping the target federal funds rate below levels the committee views as normal in the longer run. Ecco, la Yellen qui la sentite nel corso dell'ultima audizione che ha fatto al Congresso americano, in cui aveva già dato l'idea che probabilmente i tassi di interesse non sarebbero aumentati in tempi molto rapidi. Ma la Federal Reserve cosa ha detto nel suo comunicato? Innanzitutto ha reagito subito dicendo con un'economia in difficoltà, con un'economia che non sta crescendo, forse la nostra politica dei tassi di interesse non cambierà fino a quando non avremo quelle conferme di cui abbiamo bisogno per una tenuta non soltanto della crescita, ma dell'occupazione e del fatto che l'obiettivo di inflazione arrivi attorno al 2%. La Fed ha detto anche un'altra cosa importante. Ha detto che questa debolezza del primo trimestre è transitoria, non strutturale, e dovuta in particolare al freddo. The United States was hit by a devastating financial crisis in 2007 and 2008. In many respects, it was actually worse than the shock that precipitated the Great Depression. Ecco, qui sentite invece Jason Furman, il capo del consigliere economici di Barack Obama, è un giovane, un economista, devo dire molto molto bravo, molto chiaro nella sua analisi. Lui prende atto del fatto che c'è stato un dato negativo. Ricordiamolo, Barack Obama continua a rivendicare il fatto che l'economia americana si è rimessa in piedi grazie alla sua azione, e dice in questa dichiarazione che vi ho fatto ascoltare che questo dato non soddisfacente conferma che l'economia americana subisce l'effetto di una debolezza globale generalizzata. Dunque, se il resto del mondo facesse un po' da traino come ha fatto finora l'America, qui un messaggio e soprattutto per l'Europa, forse le cose anche per noi sarebbero state diverse. Ma vediamo ad alcuni degli aspetti macroeconomici che rappresentano luci e ombre. Allora, innanzitutto, dal punto di vista macroeconomico, gli investimenti negli Stati Uniti non sono andati benissimo in questo primo trimestre. Le stime erano piuttosto importanti, si stimava che insomma ciascuna famiglia americana avrebbe potuto avere in tasca più o meno un extra $1,000 al mese, eppure questo non si è trasferito sui consumi. Cosa è successo? È successo che le famiglie hanno preferito risparmiare, E questo lo dice anche Furman, cioè le famiglie hanno risparmiato di più, sempre nella dichiarazione che vi ho fatto ascoltare prima, e difatti il tasso di risparmio è salito al 5,5%, dunque questo è un elemento non necessariamente negativo, che è il tasso più elevato dalla fine del 2012, quando si ebbe un tasso di risparmio del 4,6%. Ultimo elemento che non ha aiutato l'economia americana, soprattutto sul fronte delle esportazioni, è il fatto che il dollaro si sia rafforzato. Perché? Perché naturalmente quel settore che avrebbe dovuto contribuire all'espansione dell'economia americana, cioè quello delle esportazioni, era meno competitivo nei confronti della concorrenza internazionale. Non solo, le aziende americane che devono rimpatriare profitti dall'Europa in particolare, e sono profitti molto sostanziosi, hanno rimpatriato quantità di denaro inferiori a quelle che hanno rimpatriato l'anno scorso. Ecco, detto tutto questo, arriviamo al punto finale. Quando ci sarà questo famoso aumento di tassi di interesse? Io credo che per quello che ha detto la stessa Federal Reserve, cioè che l'orizzonte a questo punto viene trasposto un pochettino più in là nel tempo, non ci sarà questo aumento prima dell'autunno, prima di settembre, ottobre, chissà, forse più in là. Ma sappiamo quali sono i due parametri chiave per la Federal Reserve, citati specificatamente nel comunicato di ieri. Il primo, dovremo constatare, ha detto la Federal Reserve, che le risorse di occupazione inutilizzate vadano ad essere utilizzate nel loro pieno potenziale. Dunque, che il tasso di disoccupazione scenda ulteriormente fino a raggiungere quello che può essere considerato un livello implicito nel tasso di disoccupazione, cioè circa il 5,1-5%, durante gli anni straordinari, alla fine dell'anno 90, e addirittura il tasso di disoccupazione era stato calcolato implicito, cioè quel livello di tasso di disoccupazione che non scatena aumenti di salari e dunque reazioni inflazionistiche. Ebbene, era stato calcolato intorno al 4,2-4,3%. Oggi siamo in un contesto macroeconomico leggermente diverso e dunque si parla di un tasso del 5,1, ma questo lo deciderà la Fed, perché, come ha detto la Yellen, ci sono molti altri elementi che vanno a formulare questa sensazione che l'occupazione è ormai al suo pieno potenziale. L'altro elemento che è direttamente collegato all'occupazione è quello dell'inflazione. L'obiettivo di inflazione della Federal Reserve è al 2%. Non ci siamo ancora. La deflazione permane. Ecco, fino a quando non si raggiungerà questo tasso del 2%, la Fed non aumenterà i tassi. E la Fed stima che nel medio termine, da qui ai prossimi 3, 4, 5 mesi, questo livello di inflazione voluto possa essere raggiunto. Perché sono due elementi importanti? Perché coloro che definiscono invece questo rallentamento dell'economia americana come strutturale dicono che questo rallentamento è la conseguenza non di fenomeni congiunturali, ma di fenomeni che non possono essere cambiati: l'invecchiamento della popolazione, i baby boomers a decine di milioni che vanno in pensione. Ecco, questo invecchiamento della popolazione si traduce in minore spese, queste minore spese si traducono in una deflazione. Ecco che i due problemi sono collegati e rappresentano in prospettiva, soprattutto per quei paesi, quelle nazioni come l'Italia per esempio o altri paesi europei che questi due elementi li soffrono molto più che in America, è una sfida importante, lanciata tra l'altro dal Fondo Monetario Internazionale durante le riunioni di una decina di giorni fa, una sfida con cui tutti i paesi industrializzati, emergenti e super industrializzati come l'America dovremo confrontarci. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno di Wiz Khalifa e Charlie Puth, See You Again. Pensate, è in questo momento la top song negli Stati Uniti, canzone numero uno, tratta dalla colonna sonora di Furious 7, che è questa grande saga sulle corse automobilistiche con protagonisti Vin Diesel, il compianto Paul Walker, che è un film che ha sbancato i botteghini e di conseguenza poi è normale che la canzone abbia avuto il successo che ha avuto. See You Again, Wiz Khalifa e Charlie Puth. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew all the planes we flew, good things we've been through, that I